La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:31 primi 47 secondi. Oscar Giannino vi ringrazio per gli studi di Milano della Radio per l'ascolto e vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar che ho cioè radio24.it. Allora, l'argomento della puntata di oggi, per consentirvi di telefonare all'800 24 0024, gli sms al 349 238 6666 e la visita di Stato che è cominciata oggi e che procederà per tutta la giornata di domani fino alla ripartenza l'indomani ancora del presidente dell'Iran Rouhani. E la domanda è molto semplice: considerate voi che sia giusto, non lo facciamo solo con l'Iran, lo facciamo con diversi paesi come noi, lo fa tutto l'Occidente, lo facciamo con l'Arabia Saudita, con ma è giusto in nome dell'interesse economico, vedremo di quantificarlo, anche di dare, di avere un'idea precisa, sorpassare, oppure invece che sorpassare, mettere in secondo piano, in terzo piano, in quarto piano, come è ovvio, visto che al presidente Rouhani bisognerà applicare tutte le regole del protocollo cerimoniale, la cortesia dell'ospitalità, mettere in quarta battuta tutto ciò che pensiamo della illibertà del regime iraniano, del fatto che impicchino, del fatto che secondo la Sharia torturino anche, del ruolo che esercitano nella politica estera, per esempio disconoscendo e continuando a disconoscere il diritto all'esistenza di Israele e così via, in nome del fatto che appunto ci sono miliardi di contratti in ballo perché dopo il venir meno delle sanzioni per il nucleare ha raggiunto l'accordo internazionale che fa venir meno le sanzioni commerciali, tranne quelle per le armi e le tecnologie per i vettori balistici. È giusto fare così perché fanno tutti così, oppure tutti sbagliano a fare così e quindi sbagliamo anche noi? È sempre un problema quando i principi vanno in contrasto con gli interessi economici, però certo la domanda si pone. È ovvio che voi potreste dirmi sì, però se lo facciamo con l'Arabia Saudita, allora perché non anche con l'Iran? Meglio un mondo in cui, come spiegano quei teorici del mercato, quindi pure tu, caro Giannino, dovresti dirci che più intermediazioni economici ci sono, più diventa complicato poi arrivare agli scontri. Vero da una parte, dall'altra ci sono principi fondamentali, la libertà, il diritto alla vita, il diritto a un equo giudizio, insomma, il terrorismo, la lotta al terrorismo e così via. Vediamo come la pensate voi. Io mi auguro, e dico solo in una battuta come la penso, che le autorità italiane riescano da una parte a non sottrarsi al fatto di giocare una partita in cui tutto l'Occidente, finite le sanzioni, è impegnato. Dall'altra però mi auguro, come ha fatto Emma Bonino oggi in un'intervista, che non dimentichino il fatto che, visto che il ruolo italiano pare che sia apprezzato da quelle parti, non identificato con gli Stati Uniti, noi abbiamo una lunghissima tradizione con l'ENI in Iran che non si confondeva con le sottosorelle americane, eccetera, eccetera, mi auguro anche che le autorità italiane però sappiano esercitare la giusta diplomatica, quanto si vuole nelle espressioni, ma anche ferma strategia di far notare che ci sono tante cose che a nostro giudizio sulla tutela dei diritti umani e di alcune fondamentali libertà nell'Iran di oggi non viene garantita. Credo che si possa fare benissimo nell'ambito di una cornice diplomatica, non capirei se noi ce ne dimenticassimo del tutto, a cominciare, lo dico, ma questa è la mia opinione, anche sottolineando che il disconoscimento che continua da parte delle autorità iraniane del diritto alla legittima esistenza di Israele, questo non significa disconoscere il problema dei territori occupati eccetera eccetera, ma alla esistenza di Israele, perché loro è questo che contrastano, per noi continua a restare un problema. Allora, tentiamo di capire di cosa si parla economicamente. Non parleremo solo di questo però, perché avremo un ospite che ci inquadra la vicenda economica del nostro interesse economico nazionale nel quadro di quello che sta avvenendo a livello internazionale con l'Iran, e poi abbiamo però anche un ospite che ci dirà qualcosa di più su quello che non funziona dal punto di vista della tutela dei diritti in Iran. Io per tutela dei diritti continuo a dire, parlo dei diritti essenziali, io non parlo dell'esportazione della democrazia nostra lì, parlo della tutela dei diritti essenziali, diritti naturali appunto, la libertà e la vita. Nella Financial Times di oggi c'è la stessa cifra che ricorre su parecchi giornali italiani, quanto a contratti di cui si attende la firma, contratti bilaterali italo-iraniani, cioè di commesse, in parole povere, ad aziende italiane nell'Iran post sanzioni. E in prima pagina del Financial Times di oggi, citando la stessa fonte ufficiosa di governo italiano che viene riportata da alcuni quotidiani, uno per tutto Repubblica, parla di una visita in cui verrebbero firmati addirittura contratti per 17 miliardi di euro, che è una cifra, insomma, più di un punto di PIL di lavoro a cui non si può restare, per così dire, indifferenti. Quali sono le cifre dell'interscambio dei primi 10 mesi del 2015 e quelle del 2014, cioè in anni in cui in realtà c'erano le sanzioni in atto commerciali a cui noi abbiamo aderito? Se andiamo a vedere le nostre esportazioni dell'Italia nel 2014 in Iran, sono ammontate in tutto solo a poco più di 900 milioni di euro. E nei primi 10 mesi del 2015 c'erano già i segni di una ripresa, ma stiamo parlando di una ripresa comunque molto moderata. Nei primi 10 mesi del 2015 le esportazioni italiane sono state di 959 milioni. L'ICE, l'Istituto per il Commercio Estero, ha fatto una proiezione sulla base della quale, qui stiamo parlando dell'esportazione, non delle commesse, è immaginabilissimo, alla luce della partnership commerciale che noi avevamo, che era forte, era sviluppata con l'Iran, eravamo nei primi 5 paesi per interscambio commerciale dell'Iran, si può immaginare senza troppa difficoltà, e se il regime diplomatico post sanzioni resta senza scosse, cioè se non intervengono incidenti sulla verifica degli impegni assunti sul nucleare dall'Iran da parte dell'Agenzia Atomica Internazionale, si può immaginare nel giro di pochissimi anni, 2-3 anni, di andare a un 3 miliardi di esportazione e quindi a moltiplicare per 3 l'interscambio complessivo tra i paesi. Ma la cosa molto importante è avere una quantificazione anche nelle decine di miliardi di dollari di lavori infrastrutturali per i trasporti, per l'energia, un po' per tutto, costruzioni e così via, che l'Iran dopo anni di sanzioni deve affrontare, quale sarà il ruolo dei committenti italiani, che, ripeto, in Iran vantano una tradizione, una forza in molti settori che dovrebbe far ben sperare. Allora, per capire meglio quanto siano fondate queste aspettative, per valutare anche quanto dura e tosta sarà la partita che giocano nel contempo i francesi e i tedeschi, gli stessi americani, verso i quali c'è naturalmente una diffidenza maggiore da parte delle autorità iraniane, abbiamo con noi il professor Stefano Manzocchi, che insegna economia internazionale ed è direttore del Lab of European Economics della LUIS. Grazie di essere con noi, professore. Buonasera, grazie. Qual è la sua stima dell'attendibilità di questo ordine di grandezza tra contratti ed aumento dell'export, che è molto rilevante? Guardi, la stima che ha fatto lei mi sembra in linea con le stime che vengono fatte internazionalmente del salto che potrebbe fare il tasso di crescita iraniano, che fino all'anno scorso, prima dello sblocco delle sanzioni, veniva stimato intorno all'1% circa, mentre dopo la risoluzione del problema delle sanzioni viene proiettato adesso intorno al 7% per quest'anno e per il prossimo. Parliamo di un aumento dell'ordine di 7 volte. Okay, un tasso di crescita indiano è superiore a quello cinese, anche se naturalmente le basi di partenza non sono le stesse. Le basi di partenza sono molto diverse, giustamente, anche perché non dimentichiamo che nel periodo delle sanzioni la stima è che il reddito pro capite iraniano, parliamo di 80 milioni di persone, è diminuito di circa $2,000 in parità di potere d'acquisto. Le sanzioni hanno colpito duramente, 5-6 anni di sanzioni. E quindi il reddito adesso medio pro capite in dollari per te potere d'acquisto più o meno quanto è? Dunque stiamo intorno ai $1,500 sempre valutato in parità di potere d'acquisto, quindi con una però proiezione verso livelli molto più elevati. In realtà quello che si stima, diciamo, con la regola del pollice, per così dire, è che il potenziale dell'economia iraniana sia assolutamente paragonabile a quello dell'economia turca, stesse dimensioni all'incirca, una capacità manifatturiera che era molto importante, naturalmente adesso parliamo di industria obsoleta in molti comparti, ma proprio questo grandi potenzialità di investimento. L'economia italiana è un'economia che esporta ovviamente soprattutto materie prime energetiche e derivati di materie prime energetiche, ma aveva un potenziale, ha tuttora in realtà un potenziale manifatturiero, ha un'industria automobilistica che esporta in tutta l'area. E tra l'altro nel 2005, quindi sembra un secolo fa, però Fiat stava per aprire un impianto proprio per 100.000 auto annuo, siccome appunto la produzione locale è molto arretrata oramai dopo anni di sanzioni, si può immaginare che, vista la tipologia di produzione per Fiat Chrysler, si potrebbe riaprire il discorso, perché le analogie e anche i rapporti storici erano molto forti. I francesi però sono rimasti purtroppo Renault, e quindi, però questo sta, come lei sa bene, l'industria italiana ha una capacità enorme nel settore del macchinario industriale, quindi al di là dei nostri produttori diretti, no, per le forniture è certamente, per i macchinari, l'elettromeccanica, l'automazione industriale e così via, siamo fortissimi, esattamente, e senza dimenticare ovviamente quello a cui lei accennava prima, l'impiantistica, per esempio la Saipem è rimasta, è anche tuttora presente, no? È rimasta anche nel periodo delle sanzioni con molte difficoltà, e quindi è pronta a investire, probabilmente alcune delle commesse di cui si parla riguardano. Anzi, dovrebbe, la cosa di cui si sussurra, vedremo la conferma, è che oltre 5 di quei 17 miliardi dovrebbe essere una mega commessa Saipem per oleodotti. Molto in questi tempi. Con il crollo degli investimenti nel settore energetico a livello mondiale, avere commesse di questo genere naturalmente è importante. Sentaci, io le faccio una domanda, che è una domanda che, insomma, io non ho mai trovato una risposta ragionevole che non sia la politica militare, la politica di potenza, che capisco perché c'è nata una grandissima partita, come si vede, tra Iran e Arabia Saudita, sciiti contro sunniti per l'egemonia dell'area, si combatte non solo sul terreno siriano purtroppo, con centinaia di migliaia di vittime, ma su quello iracheno dai tempi dell'intervento americano. Ma perché un paese che è quinto al mondo per stime di riserve petrolifere, che in altre parole potrebbe estrarre, anche se senza nuove identificazioni di giacimenti, per un secolo prima di dar fondo a quello che già con certezza c'è nel suo sottosuolo dal punto di vista delle riserve fossili tra gas e petrolio, si butta sul nucleare? Che senso ha se non è il militare? Ma questo è, dunque, cioè, qui entriamo appunto in una sfera che è al confine tra l'aspetto economico e l'aspetto politico, e non sappiamo, naturalmente io senz'altro non lo so, quali siano state le intenzioni e quali siano tuttora le intenzioni di questo programma atomico. Devo dire che le riserve anche di uranio nel paese sono importanti. Questa, quindi, è una risposta. Esatto, e quindi ci può essere un interesse. Diciamo. Poi sa, lì, come lei sa, si tratta anche di sviluppare una serie di aspetti tecnologici. Sappiamo che l'Iran, per esempio, aveva questa, ha tuttora, credo, una tradizione nel comparto della fisica, grandi cervelli, sappiamo anche di fughe eccellenti di personaggi all'estero. Non ci resta che confidare sul fatto che i limiti assunti con l'impegno per l'arricchimento, per esempio, dell'uranio, quindi per la produzione di plutonio, per evitare che sia dual use anche militare, la dismissione di alcuni degli impianti e di molte migliaia di centrifughe che servono appunto all'arricchimento del combustibile fissile, siano rispettati. Però, detto questo, quindi lei, rispetto a francesi, tedeschi e americani, siamo secondo lei in condizioni migliori in questa gara oppure no? Ma rispetto agli americani, a quello che dichiara la leadership iraniana, senz'altro. Sì. Anche in questi giorni gli iraniani hanno continuato, e non dimentichiamo poi che c'è un potenziale a cui lei faceva riferimento, che è quello dell'importazione di paesi di consumo. Sembra che per esempio le nostre lavatrici fossero molto apprezzate in Iran prima dell'embargo, quindi che magari quello che è visto, come sta il settore del bianco in Italia, insomma, anche se ormai non è più nostro, esatto, diciamo, sì, ho capito, però le fabbriche ci sono, quindi magari, e quindi io credo che ci sarà naturalmente come al solito con tedeschi, francesi, probabilmente in parte anche con gli inglesi. E vedremo. Però le devo fare un'ultima domanda, professor Manzocchi, prima dell'interruzione e di salutarla per averci dedicato questi minuti. Secondo lei esiste la possibilità diplomatica di combattere questa partita per il nostro export, per le nostre commesse, per il nostro lavoro, per avere la nostra parte, come fanno tutti i paesi occidentali, e contemporaneamente esercitare un ruolo politico-diplomatico che dica anche all'Iran quello che non ci convince dal suo modello? Dunque, questa è la domanda più difficile. La partita economica, di diplomazia economica, senz'altro la possiamo combattere. L'altra partita è una partita effettivamente molto difficile, e quando lei faceva l'elenco dei paesi rispetto ai quali ci preoccupiamo per questi aspetti all'inizio della trasmissione, mi veniva da pensare che anche la Cina non è esattamente un esempio. Decisamente no, decisamente. Ecco, quindi il punto è che, come lei diceva, bisogna contemperare un po', come scrive Hirschman, passioni e interessi. Passioni e interessi, però gli interessi rischiano a quel punto di prevalere dannatamente. Però detto questo, mi rendo conto che è una domanda complicata, però io penso che gli iraniani, insomma, tanti che ho conosciuto, insomma, solo una volta, tantissimi anni fa, sono andato quando ero molto giovane e mi ha colpito tantissimo, però sono solo a Teheran, sono passati veramente 1000 anni. Però detto tutto questo, il regime di privazione della libertà è molto pesante. L'appropriazione da parte dell'apparato dei Pasdaran, politico-militare, che sono il pilastro vero del controllo del regime sulla società, dell'apparato militare industriale, è una roba non solo inefficiente, ma è purtroppo la garanzia che il regime non mollerà la presa. Basta vedere quanti candidati dei cosiddetti riformisti, cioè che si riconoscono il presidente Rouhani, sono stati esclusi, secondo notizie che abbiamo, dalla missione alle liste delle elezioni prossime a febbraio. Su molte migliaia di candidature avanzate di questo fronte, il Consiglio dei Guardiani, che, come ricordo chi ci ascolta, è l'organo teocratico attraverso cui la grande guida della rivoluzione controlla la politica dall'alto, ne ha messi solo 30 di numero in tutto il paese. Intanto, grazie al professor Manzocchi, torniamo tra un minuto con l'altro aspetto, cioè appunto quello di quello che non funziona nella libertà nel regime iraniano. La versione di Oscar. Eccoci tornati alle 16:50. Sentiamo rapidamente un ascoltatore, Alessandro da Siena. Prego, Alessandro, come la pensi? Buonasera, Oscar. Sì. Io sono esperto di Iran perché ci ho vissuto per 2 anni, dal 2006 al 2008, e dopodiché ci ho lavorato molto da consulente dall'Italia con diversi progetti, ovviamente nell'ambito delle difficoltà. Volevo riallacciarmi a quello che era stato detto all'inizio, cioè del discorso dei diritti umani, delle libertà e tutto. Dobbiamo tenere presente che, pur con tutti i limiti e tutti i problemi che ci sono e che gli iraniani sanno benissimo che ci sono, l'Iran è l'unico paese di tutta la zona medio orientale ad aver fatto una transizione puramente democratica. Cioè, le primavere arabe sono iniziate da lì e sono state represse nel sangue. Tu dici che sono iniziate da lì, dal modello, da un modello teocratico, insomma, le premesse dalla Tunisia all'Egitto erano diverse, poi lasciamo perdere che cosa è successo. Io nel sistema teocratico, con i guardiani della rivoluzione che controllano tutto, insomma, devo ammettere, cioè, proprio, per la cultura che ho non riesco, poi è facile dare giudizi, però insomma, allora scusami, vediamo un secondo, abbiamo con noi Elisabetta Zamparutti, che è la tesoriera di Nessuno Tocchi Caino, che si occupa, appunto, come capite dal nome, innanzitutto di la battaglia internazionale contro la pena di morte, cioè le violazioni più clamorose al diritto naturale, alla vita umana, e che è curatrice del rapporto Il volto sorridente dei Mullah. Grazie di essere con noi, Elisabetta. Grazie a voi per questa possibilità di esprimerci. Vogliamo ricordare quante pene di morte, da che Rouhani nel 2013 è presidente riformista, sono state ufficialmente, di cui siamo a conoscenza, sono avvenute in Iran? Vi sono state 2.277 esecuzioni nel periodo che va dal 1 luglio del 2013 al 15 gennaio del 2016, e è una cifra incredibilmente drammatica, ma quello che preoccupa è soprattutto l'escalation a cui abbiamo assistito. Se pensiamo che nel 2015 vi sono state almeno 980 esecuzioni, che sono un 22% in più rispetto alle 800 dell'anno precedente, il 2014, che a loro volta erano aumentate di oltre il 42% rispetto al 2013. Quindi noi abbiamo una presidenza in Iran sotto la quale la pratica della pena di morte è aumentata in maniera vertiginosa, non ci sono segnali di un suo contenimento. Se pensiamo che in queste prime due settimane del 2016 sono state impiccate almeno altre 53 persone, tra loro anche minorenni, possiamo dire che l'Iran è l'unico paese al mondo che pratica la pena di morte nei confronti di minorenni, ma poi ci sono tutta una serie di altre terrificanti violazioni dei diritti umani che vanno dalla tortura, l'amputazione degli arti, ancora c'è la pratica di cavare gli occhi, ci sono fustigazioni e molte altre. È stata reintrodotta altre... anche la lapidazione. È stata reintrodotta anche la lapidazione nell'aprile 2013, e, pur non avendo registrato casi di lapidazione. Ma insomma, il quadro che emerge è questo ed è costantemente oggetto anche di condanne da parte della comunità internazionale, che non manca, in particolare all'Assemblea Generale dell'ONU, di porre in evidenza quello che è davvero di una gravità inaudita e su cui non si può, tra virgolette, di cui non si può tra virgolette fare l'economia. Sono molto d'accordo con questa impostazione, anche perché, ripeto, mentre la posizione ufficiale dell'Iran è che loro condannano la pena di morte per i reati di droga, omicidio e così via, in realtà condannano la morte anche per blasfemia, per apostasia dell'Islam. Abbiamo notizie di scienziati che, per via delle loro prese di posizione religiose, sono passibili di questa pena. Ci sono anche pene di morte per terrorismo, ma di quello che sappiamo vengono combinate per che cosa in Iran? La pena di morte è praticata in maniera massiccia per quanto riguarda la droga, e peraltro in uno delle pochi commenti che Rouhani ha fatto pubblicamente sull'uso della pena di morte lo ha rivendicato come, insomma, un favore che lui sta facendo all'Europa, quello di giustiziare in maniera massiccia. Sono state 632 l'anno scorso le esecuzioni per droga, perché in questa maniera, dice, proteggo il vostro continente dal fenomeno del traffico della droga. Poi per omicidio, per stupro e vanno anche ricordati reati di natura politica e anche reati di natura non violenta, e allora, tra queste anche per motivi adulterio, blasfemia, sì, religiosi. Allora, detto questo, io ringrazio Elisabetta Zamparutti, mi auguro che le autorità italiane trovino il modo di dire come la pensiamo su queste cose. Continuate su Radio 24, intanto appuntamento alle 8:15 di mattina insieme a Alessandro Milan con Attenti a Noi Due.